want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Soundcheck. Il suono della musica di JJ Telesforo. Per l'industria musicale, l'artista, ovvero il cantante solista, ancora oggi ha come obiettivo fare un grande disco, una grande performance, un grande show, ma per fare questo ha bisogno di un suono, un timbro originale, unico e riconoscibile. Dunque, vien da sé che alcuni artisti, proprio per il timbro della loro voce, la pronuncia, il senso del ritmo, l'interpretazione, tutto questo legato anche alla scelta di un genere, di uno stile, di un grande repertorio, magari fatto di composizioni originali, diventino col tempo dei modelli da seguire, dei must veri e propri, dai quali non si può prescindere. Ebbene, oggi vorrei proporvi, qui al Soundcheck di Radio 24, alcuni esempi di vocalità immortale, artisti, cantanti, inventori della bellezza della voce da studiare, amare, metabolizzare e diffondere, voci che non possono mancare nella nostra personale discoteca di veri appassionati di musica. E vorrei iniziare con Billie Holiday, fra le più grandi di tutti i tempi, cantante meravigliosa di jazz e blues. Billie Holiday ebbe un'infanzia travagliata e dolorosa, narrata nella sua autobiografia The Lady Sings the Blues. Nata da genitori non sposati, dopo una notte d'amore tra il sedicenne Clarence Holiday, suonatore di banjo, e la tredicenne Sadie Fagan, ballerina di fila. È stata prestissimo abbandonata dai genitori scapestrati, subì uno stupro a 10 anni e ancora bambina raggiunse la madre a New York, lì dove la mamma faceva la cameriera, e cominciò a procurarsi da vivere prostituendosi in un bordello clandestino di Harlem. Guadagnava qualche soldo in più lavando gli ingressi delle case del quartiere e non si faceva pagare solo dalla tenutaria del bordello, che in cambio le lasciava ascoltare i dischi di Bessie Smith, Louis Armstrong sul fonografo del salotto. Quando la polizia scoprì il bordello, Billie Holiday venne arrestata e condannata a 4 mesi di carcere. Fu rimessa in libertà e decise, per evitare di tornare a prostituirsi, di cercare lavoro come ballerina in un locale notturno. Ma la signora Holiday non sapeva ballare e venne assunta immediatamente quando la fecero cantare, e ad appena 15 anni iniziò la sua carriera di cantante nei club di Harlem. Dalle ultime registrazioni, Last Recording di Billie Holiday nel 1959, Billie Holiday, nell'anno poi della sua morte, canta in studio Sometimes I'm Happy, qui al Soundcheck di Radio 24. Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition. Sì, la voce di Billie Holiday al Soundcheck di Radio 24 con Sometimes I'm Happy. Billie Holiday è stata aiutata da Artie Shaw, clarinettista, direttore d'orchestra, ma anche amante di Lady Day, e con lui fu fra le prime cantanti nere ad esibirsi assieme a musicisti bianchi, superando le barriere razziali. Pensate però che nei locali dove cantava doveva comunque utilizzare l'ingresso riservato ai neri e rimanere chiusa nel suo camerino fino all'entrata in scena. Poi, una volta sul palcoscenico, si trasformava in Lady Day con la sua gardenia bianca fra i capelli. La carriera di Billie Holiday è stata segnata dalla dipendenza dall'alcol e dall'eroina, ma il suo impatto sugli altri artisti fu comunque notevole in ogni fase della sua carriera. Una voce intensamente drammatica, la capacità di volare sul tempo, l'emozione che riusciva a trasmettere anche su testi a volte banali. Anche dopo la morte, Billie Holiday ha continuato continuato ad influenzare cantanti affermate, da Janis Joplin a Nina Simone, da Macy Gray a Erykah Badu. Billie Holiday morì per le complicazioni di un'epatite all'età di 44 anni il 17 luglio del 1959 nel letto di un ospedale di New York, sorvegliata da un agente del servizio narcotici. Let there be you, let there be me, let there be oysters under the sea, let there be wind, an occasional rain, chili con carne, sparkling champagne. Non poteva mancare in questa puntata dedicata alla vocalità afroamericana, ai cantanti immortali, la voce di Nat King Cole in questa sua versione di Let Be There Be Love. Nat King Cole, nato nel 1919, iniziò la sua carriera intorno alla metà degli anni 30, ancora 17enne, partecipando ad alcune jam session con musicisti già affermati come il sassofonista Lester Young, oppure il campione di swing con il suo vibrafono Lionel Hampton. E pensate che è stato anche il primo artista afroamericano ad avere un programma radiofonico tutto suo e in seguito anche a diventare il conduttore, il protagonista nei tardi anni 50 di un programma televisivo che fu chiuso prestissimo perché a un certo punto si ritirarono gli sponsor proprio per il fatto che non volevano legarsi ad un artista nero. Nat King Cole è sempre stato insicuro riguardo alla sua vocalità, pur andando fiero della sua buona dizione, però non si è mai considerato un grande cantante. Piuttosto, da molti musicisti di jazz, è considerato un eccellente pianista e proprio con il suo trio in qualche modo ha stimolato la formazione dei piccoli combo, dei piccoli gruppi, proprio in un momento in cui invece erano in auge le grandissime big band. Pensate che per donare alla sua voce quel tono suadente e quel timbro particolare, Nat King Cole era convinto che proprio come terapia dovesse fumare circa 3 pacchetti di sigarette al mentolo al giorno, naturalmente scelta che poi gli fu fatale perché morì proprio di un cancro ai polmoni il 15 febbraio del 1965, un mese prima del suo 46esimo compleanno. Quindi considerato un importante pianista di jazz, un rivoluzionario all'epoca delle big bands, e oggi anche considerato e riconosciuto come il papà di tutti i crooner. Ha stimolato il lavoro di musicisti come Art Tatum, Ahmad Jamal, il trio di Oscar Peterson, il trio di Tommy Flanagan, e anche musicisti e pianisti di blues come Charles Brown, e naturalmente il lavoro di The Genius Ray Charles, altro campione di musica e di vocalità, qui presente al soundcheck di Radio 24 con la sua bellissima versione di Still Crazy After All These Years di Paul Simon. Lui è Ray Charles, qui al soundcheck di Radio 24. So glad to see me, I just smiled. Di nuovo in contatto con il soundcheck di Radio 24 in questa puntata dedicata alle voci immortali della black music, e parlando proprio di voce e di voce come strumento musicale, certamente non possiamo non considerare che la voce è il primo e imprescindibile strumento musicale, sicuramente il più istintivo, tant'è vero che la voce fin dalle origini è stata considerata come un fondamento proprio dell'espressione musicale, ispirando anche la creazione di diverse diversi strumenti. Anche nella musica strumentale termini come cantabilità o cantando vengono spesso utilizzati proprio per indicare comportamenti timbrici e di fraseggio analoghi a quelli impiegati nella pratica vocale, e in alcune tradizioni musicali la voce è proprio il modello espressivo a cui tende la musica strumentale. Questo è successo e succede ancora oggi nella black music. Quindi se il cantante usa la propria voce per intonare ed interpretare la melodia principale di un brano musicale, il corista invece canta in un coro e accompagna il solista con delle seconde voci o voci complementari. Ma c'è un'altra figura, quella contemporanea, quella del vocalist, un musicista che usa la sua voce come un vero e proprio strumento. E un musicista cantante che oggi è considerato il profeta dei vocalist contemporanei per la black music e che ha segnato il corso della musica fino ai giorni nostri è stato proprio il compianto Donny Hathaway. Musicista, pianista, eccellente, formidabile cantante nato a Chicago, dove inizia a cantare proprio nel coro gospel della sua città quando aveva 3 anni, prende una bella borsa di studio da giovincello alla Howard University di Washington, dove conosce Roberta Flack, con la quale instaura un forte sodalizio umano e artistico durato fino alla sua morte. Scomparsa arrivata prestissimo, a 34 anni, è morto suicida, Donny Hathaway, lasciando però in eredità a tutti noi 5 album in studio, 3 dal vivo, e fra gli album in studio proprio questo capolavoro del 1973 intitolato Extension of a Man, dal quale ascoltiamo la bellissima Someday We'll All Be Free. Donny Hathaway al soundcheck di Radio 24. Hang on to the world as it spins around. Just don't let the spin get you down. Someday We'll All Be Free, qui al soundcheck di Radio 24, la voce di Donny Hathaway, che il 13 gennaio 1979, a 34 anni, viene trovato morto sul marciapiede dell'Essex House Hotel lì a New York, dove pernottava in una stanza al 15° piano, e la morte fu ben presto considerata suicidio vista la sua precaria salute psicofisica. Considerato dalla rivista Rolling Stones uno dei pionieri della soul music, Donny Hathaway, inserito nella lista della medesima rivista alla posizione 49 tra i 100 cantanti più grandi di sempre. Con il tempo non ha mai smesso di influenzare artisti provenienti dalla realtà afroamericana anche contemporanea, e i quali lo hanno citato tra le loro fonti di ispirazione, e fra questi troviamo Alicia Keys, Beyoncé, R. Kelly, Chris Brown, John Legend, Amy Winehouse, George Benson, Justin Timberlake, Christina Aguilera, Anthony Hamilton e naturalmente Stevie Wonder, che chiude questo appuntamento del soundcheck di Radio 24 con la sua From the Bottom of My Heart. A tutti voi buon pomeriggio e buona musica da Gegé Telesforo. Soundcheck. Il suono della musica.